Ipersfera. Andrea si trovava in ufficio, nella sua fondazione, appena arrivato con al suo moto da Melun. Prese un foglio, una penna e come sua abitudine scrisse una lettera. Una volta terminata, con il foglio costruì un aeroplanino che si divertì a far volare all'interno dell'ufficio. Noi invece eravamo nella sala della musica per ascoltare Mumia e Lavia suonare l'arpa. Eravamo in tanti, c'erano anche Raffaele e Gabriel, loro erano accanto alle due musiciste a trascrivere le melodie che eseguivano, io ero sdraiato a terra con le caviglie incrociate e una mano sotto la nuca, con l'altra afferrai l'aeroplanino che Gabriel fece volare verso di me. Lessi la lettera di André. Questa mattina mi trovavo ancora a casa di Masako, la geisha che frequentavo da diverse settimane. Mi ero seduto alla scrivania davanti alla finestra per scrivere la mia lettera. Ma il suono dell'acqua della fontana della piazzetta e la presenza di Masako mi hanno distratto. Mi sono girato verso di lei e mi sono guardato intorno. Io ero così calmo e rilassato, Masako così indaffarata e concentrata sui suoi ritmi, controllava e ricontrollava l'agenda e l'orologio, continuava a ripetere che era in ritardo. Mi sono ritrovato a riflettere su quanto fossimo simili, affiatati, amici, complici, in qualche modo affezionati, ma completamente disinteressati l'uno dell'altra. Guardavo lei e la sua casa come mai avevo fatto prima, mi piaceva andare da lei, la sua compagnia, l'atmosfera della sua casa, tutto aveva il sapore di una vacanza. In quel momento ho avuto la sensazione di quanto tutto lo vivessi come provvisorio, buffo. Ho realizzato che quelli erano gli ultimi minuti che avrei passato con lei. Mi dispiaceva? No. Perché stavo prendendo quella decisione? Non lo so. Ne sono addolorato? No, piuttosto ne sono divertito. Che io non sia mai stato un tipo sentimentale lo sanno pure i sassi. Ogni tanto ripenso a Silvie, chissà se mi odia o se in cuor suo si aspettava una fine del genere. Mi è venuto da ridere, mi sono alzato dalla sedia, ho infilato la giacca, ho dato un bacio a Masako e me ne sono andato. Amici come prima, a mai più. Risoluto il tuo pupillo, sorrise Raffaella a Gabriel. Sin da bambino, intervenne Mummia. A me sta simpatico, dissi, sa cogliere il lato leggero delle cose, senza tante paturnie inutili. Siete sicure che l'arpa sia l'accompagnamento giusto per un tipo come André? Sorrise Gabriel. Meglio questo? Ridacchiò la via cambiando il suono che proveniva dall'arpa. Sì, esclamai alzando le braccia in alto. Lavia e Mumia ripresero a suonare l'arpa, ma con le note che avevano il suono del rombo del motore di una moto. Eccellente esempio di musica delle sfere, rise Rafael. Alan aprì gli occhi e si accorse che era ancora notte fonda. Gran brutta cosa il sonno leggero, disse una voce femminile alle sue spalle. Alan sussultò spaventato anche se aveva riconosciuto la voce di Abuya. Fai tanto il rude ma alla fine della fiera sei un gran fifone, continuò lei. Alana si voltò e la vide seduta sul suo letto a gambe incrociate intenta a leggere il suo quaderno di poesie. «Sono così spaventosa?» gli chiese chinandosi su di lui. Alan alzò lievemente un sopracciglio con un lieve sorriso, perché Abuya è tutt'altro che spaventosa, è bellissima. «Ah beh! Vorrei vedere!» esclamò Abuya che aveva ascoltato i suoi pensieri. «Non leggere!» brontolò Alan provando a toglierle di mano il suo quaderno. «Che fai ti vergogni?» rise Abuya, credi che non abbia mai letto cose come queste? A quale genere le vogliamo catalogare? Erotic barra sexy barra porn barra poetic barra fantasios? Sono pensieri privati. Oh! Quante storie, rise allontanandoli il quaderno, hai una bella fantasia lo sai. Continuò a canzonarlo, posando lo sguardo su altri versi, Alice sarebbe capace di cantarli. Adesso chi è questa Alice? Sbuffò Alan alzando gli occhi al cielo. È una mia amica, la conoscerai, rispose fra sé, poi guardando Alan, con voce bassissima e cavernosa alzò le braccia verso l'alto con fare un po' epico e un bel po' ironico tuonò, Alice è un guerriero dalle ali rosse, che scortata da Michele e le sue legioni, con la sua spada d'oro decapiterà Satana. Ma falla finita, brontolò Alan lasciandosi cadere sul cuscino. Te l'ha mai detto nessuno che sei insopportabile? Gli chiese Abuya. Tutti, rispose orgoglioso Alan. Ecco appunto. E poi, magari, si viene a scoprire che questa Alice non è altro che una tipa con una banalissima mantella rossa. Ottimo. Ma quante belle soddisfazioni mi dai, rise Abuya pizzicandogli il naso facendogli ondeggiare la testa. Ridammi il quaderno, ribadì lui schiaffeggiandole la mano. No. Rare Franoise si trovavano sul camper per una gita nella provincia di Gipuzkoa in Spagna, Per carità, appena arriviamo togliamo questi fiori dal camper, esclamò Franoise, ma come ti è saltato in mente di riempire il camper con tutti questi fiori? Volevo farti una sorpresa, pensavo ti facesse piacere. Mi gira la testa, altro che piacere. Quello fu l'argomento di gran parte del viaggio, finché non arrivarono nei pressi di Honda Ribia. Rar cominciò a guidare in modo strano, ridusse sempre più la velocità del camper, fino a proseguire a passo d'uomo con un bizzarro zigzag, inspiegabile per Franoise che cominciò a guardarlo dubbiosa. «Chissà perché hanno bloccato così la strada», mormorò Rar. Franoise lo fissò spaventata. «Guarda qui, sacchi di sabbia, cavalli di Frisia», si voltò verso Franoise, «deve essere successo qualcosa. Senti se alla radio danno qualche notizia, guarda che roba, non si riesce a camminare». Franoise continuava a guardarlo con sospetto, perché lei aveva davanti a sé la carreggiata libera da intralci e anche dal traffico perché in giro sembrava ci fossero solo loro. Per Arno, transitare per quella strada era una vera gincana. «Bella questa voce», disse Gerard, «che radio ha?» «Che voce? Io non ho acceso la radio?» «C'è una voce che canta». «Io non sento nessuno cantare», troncò Franoise. «È una bella melodia», continuò sicuro Gerard. Franoise non replicò, lui non parlò più di alcuna voce, ma era evidente che lui fosse convinto di sentire qualcosa, perché muoveva il capo come quando ascoltava la musica. Un sobbalzo improvviso, Rar sterzò bruscamente verso una strada secondaria. «Adesso dove andiamo?» chiese Franoise. «Non lo so, ma almeno, vedi, qui è tutto libero». Franoise oltre ad essere spaventata stava anche perdendo la pazienza. «Mica possiamo girare a vuoto così, il sole sta per tramontare. Siamo sul camper. Voglio un posto che abbia pareti in muratura e un tetto». Franoise si stava convincendo sempre più che Rar stesse male. «Che meraviglia, guarda», esclamò Rar indicando davanti a loro. Franoise si irritò. «Guarda cosa? Non c'è niente. Non la vedi? Cerchiamo un posto dove passare la notte, io voglio scendere da questo camper». «Io la seguo», continuò convinto. Franoise posò una mano sulla fronte per cercare di calmarsi. Rar vedeva una luce argentata che si muoveva davanti al camper. Un velo d'argento che ai suoi occhi sembrava volesse guidarlo. La luce scomparve nei pressi di una bella casa rurale. «Ti prego fermati qui», implorò Franoise indicandogli l'edificio. «Certo», rispose Gerard convinto che la luce lo avesse portato là di proposito. Non appena Gerard formò il camper Franoise saltò giù sbattendo la portiera alle sue spalle e avviandosi di corsa verso l'ingresso della casa. «Potete ospitarci?» chiese nervosa alla signora che le venne incontro. «Abbiamo un paio di camere libere». va bene», tagliò corto Franoise. Era un albergo molto bello, l'aspetto di una baita, l'interno era ancora più bello e accogliente, a Gerard piacque moltissimo. «Guarda in che meraviglia ci hanno portato», diceva guardandosi intorno. Ma Franoise non lo ascoltava affatto, saliva le scale battendo i piedi sui gradini con lo sguardo basso. «Mi spieghi cosa sta succedendo?» urlò arrabbiata appena entrarono in camera. Litigata furiosa. Le persone presenti nella casa li sentirono litigare tutta la sera, Franoise era convinta che Gerard fosse impazzito, che doveva farsi curare, mentre lui continuava a ripetere che se non fosse stato per le sue visioni non avrebbero mai avuto l'occasione di trovare un posto così bello. Due monologhi tra due sordi. Quella notte Franoise dormì vestita sdraiata sul letto, mentre Gerard passò parte della notte davanti al camino del salotto all'entrata, per poi uscire sulla veranda. Rimase in piedi a guardare il panorama illuminato dalla luna, poi si sedette su una delle poltroncine di Vimini. «Chissà come proseguirà la vostra vacanza?» gli sussurrò una voce. Gerard si guardò intorno, ma non vide nessuno. Sentì battere sulla sua spalla. Gerard si voltò e vide Rockel che si sedette sulla poltroncina di Vimini accanto a lui. Gerard e Rockel si guardarono divertiti. «E, certo che», mormorò Rockel un po' deluso ma anche un po' sarcastico. «Ma», mormorò Gerard scrollando le spalle. «Boh», sorrise Rockel. «Che ti devo dire», sorrise imbarazzato Gerard, «ma sì mi ci sono abituato», rise, «a proposito chi era che cantava?» Aveva ragione Franoise o davvero c'era una voce che cantava? «Si era Alice», rispose Rockel, «tra non molto la conoscerai». Marcella aveva appena finito la sua lezione di danza. In quei giorni si trovava a Colliure, insegnava a danzare a chi è costretto su una sedia a rotelle, bambini e adulti, tutti insieme. Una volta salutati tutti i partecipanti al corso, rimasto solo, tornò al centro della sala e di fronte allo specchio improvvisò alcuni passi e salti, una vera coreografia. Marcel era talmente concentrato che non si accorse che lo specchio di fronte a lui dapprima si appannò poi si liquefece fino a diventare traslucido. Per farla breve, Menachel apparve da dietro lo specchio, lo attraversò e posizionandosi a fianco a Marcel ballò con lui. Dopo una serie di salti e acrobazie si sedettero a terra davanti allo specchio. «Che bravo che sei», si complimentò Menachel. «Perché non sei venuto quando c'erano gli allievi?» domandò Marcel. «Chi ti dice che non ci fossi? A che serve essere presenti se non ti possono vedere? Chi ti dice che non mi hanno potuto vedere?» «Non ti hanno visto», sorrise Marcel scuotendo la testa. «Forse non tutti», replicò Menachel, «forse non mi hanno visto, forse mi hanno sentito. Troppi forse. Tu mi vedi?» «Certo che ti vedo. Può bastare, no?» «Forse no. Un forse di troppo», ridacchiò Menachel. Una voce, una melodia troncò la loro conversazione. Marcel si guardava intorno senza capire da dove arrivasse quel canto. «Che bella voce», disse a Menachel. «Avrai modo di conoscerla», gli rispose invitandolo ad alzarsi. Dallo specchio arrivarono molti di noi, che presero l'aspetto di varie tipologie di persone, anche sulle sedie a rotelle come gli ultimi allievi di Marcel. «Sarà la tua nuova coreografia», disse Menachel. Ballarono tutti seguendo il canto della voce che si propagava nella sala. All'improvviso la porta si aprì. La signora che gestiva il centro culturale interruppe Marcel che concentratissimo danzava da solo al centro della sala prove. «Marcel balla anche senza musica», disse la signora, «ci serve la sala, il tuo turno è finito». La luce della luna illuminava la stanza occupata da André, che in quel periodo viveva e lavorava come aiuto giardiniere nella villa Eflussi de Rothschild a Saint-Jean-Cap-Ferrat, sulla costa azzurra. Una voce, una melodia, André si sedette sul letto guardandosi intorno senza capire da dove arrivasse quel motivo. Si sdraiò e continuò ad ascoltare il canto con gli occhi chiusi. Una voce, una melodia intonata da una figura femminile che danzava la basse danze con Gabrielle. Danzavano circondati da tulipani rossi e garofani rosa. Erano felici. Tutti eravamo felici. Una voce, una melodia intonata da una figura femminile che combatteva con il bastone insieme a Gabrielle. Combattevano circondati da tulipani rossi e garofani rosa. Erano felici. Tutti eravamo felici. Una voce, una melodia intonata da una figura femminile che combatteva con la spada insieme a Gabrielle. Combattevano circondati da tulipani rossi e garofani rosa. Erano felici. Tutti eravamo felici. Una voce, una melodia intonata da una figura femminile che dipingeva insieme a Gabrielle. Dipingevano circondati da tulipani rossi e garofani rosa. Erano felici. Tutti eravamo felici. Una voce, una melodia intonata da una figura femminile che camminava da sola in un deserto sferzato dal vento gelido. Non c'erano più i tulipani rossi, non c'erano più i garofani rosa. Nessuno era felice. La voce si dileguò, Andrea aprì gli occhi. Vide Gabrielle in piedi accanto alla porta finestra aperta che lo stava osservando. Mio fratello non disse niente, uscì verso il giardino. André si sbrigò a seguirlo, così come si trovava, scalzo e con i pantaloni del pigiama. Mio fratello camminava spedito davanti a lui, André dovette allungare e velocizzare parecchio il passo per raggiungerlo. Il canto e le immagini di Gabrielle con la sua misteriosa compagna gli occupavano la mente. Era lei che stava cantando, era lei la guerriera che cavalcava sulla spiaggia accanto a Gabrielle con tutti noi, era sempre lei ritratta sullo stendardo. André sperava in una spiegazione, ma Gabrielle non diceva niente, André doveva solo seguirlo in silenzio. Si diressero verso la parte più alta del giardino. Gabrielle si sedette sui gradini di un tempietto classicheggiante, André accanto a lui. La luna illuminava il giardino ai loro piedi, con la grande fontana al centro del viale, che spenta, sembrava dormisse. «La conoscerai presto», disse Gabrielle. Andrea si voltò verso di lui curioso di ascoltarlo. «Hai già incontrato altri come lei», riprese Gabrielle, «viaggiatori con l'incarico di raccogliere informazioni su come si vive sotto il dominio di Xantian. Ha viaggiato tanto, per tutto l'universo, per tanto tempo, ha attraversato tanti mondi, tante vite, tante storie, separata da tutti noi. Senza niente, senza riferimenti, senza conforto, da sola, come voi. Voi sulla Terra vivete così, vi chiedete perché siete qui, Per quanto tempo? Per fare cosa? Fate così tanta fatica a dare un senso alla vostra vita, si fermò, ha ancora strada davanti a sé, riprese, è una missione difficile da affrontare, si interruppe di nuovo, per l'ultima parte del suo viaggio vorrei che fosse più serena, disse guardando dritto negli occhi André, è cambiata, continuò Gabriel guardando la fontana spenta, non le interessa più sapere dove si trova, cosa deve fare, non le interessano le persone che incontra, le interessa solo tornare a casa. Io non voglio che sia infelice. Gabriel tornò a guardare André, vorrei che tu e i tuoi amici l'accompagnaste per l'ultima parte del suo viaggio, o almeno finché lei vorrà stare con voi. Certo, disse prontamente André, come per tranquillizzarlo. Vorrei che capisse che la vita qui sulla Terra può essere bella anche con le difficoltà che vi opprimono, vorrei che cogliesse l'opportunità di vedere la vita come un'esperienza piacevole, da voler ricordare e non come una pratica da chiudere e archiviare per sempre. Alcuni viaggiatori hanno addirittura scelto di rimandare il ritorno da noi e restare con voi. Ci sono così tante cose belle da scoprire qui, e tu sei in grado di trasmetterle tutto questo. André osservava attento Gabriel, che per la prima volta gli appariva stranamente fragile e preoccupato. Sentì l'istinto di abbracciarlo, ma Gabriele gli metteva soggezione. André aprì gli occhi, la porta finestra aperta fece entrare l'aria frizzante dell'alba. Si alzò dal letto e uscì in giardino così come si trovava, scalzo e con i pantaloni del pigiama. Fece lo stesso percorso fatto con Gabriele, ma non salì verso la parte alta del giardino, piuttosto si diresse verso la balconata per affacciarsi sul mare. Pensava e ripensava all'incontro con Gabriel che diversamente dalle altre volte aveva parlato molto, gli aveva detto tante cose, gli aveva parlato da amico, ma qualcosa non gli tornava. Mancava qualcosa. Cosa mancava al suo discorso? Andrea era perplesso, per la prima volta Gabriel sembrava essere stato così chiaro, eppure c'era un non detto. Conoscendo Gabriel, Andrea realizzò che era proprio in quello che Gabriel non aveva detto che si nascondeva l'essenza di tutto.